vesti la mattina, non importa. Fuori impazza la rivoluzione. Abbiamo aperto la galera, portando in strada la prigione. A baciarsi con un nome africano, senza volto. Non ci sono più condizioni per poterci incontrare, né fuori né dietro una siepe di questa città animale. Manca solo il tuo respiro questo era Fargas, Città Animale, una canzone meravigliosa. Per fortuna ce l'abbiamo poi qui con noi sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Siamo sempre Ileana e Carlotta e parleremo appunto di questo artista che in realtà abbiamo avuto il piacere di avere proprio qui con noi in studio. Che bello, come stai? Ciao Fargas. Ciao, ciao, ben trovate. Bene, bene. Hanno mal di testa oggi pazzesco, ma per il resto bene. Benissimo, siamo molto contenti di averti di nuovo qui. Ci ricordiamo bene, un anno fa sei venuto a trovarci negli studi di Radio Città Fujiko e qui in via Zanardi ci hai fatto un bellissimo live e invece oggi ci parlerai dal telefono, ci racconterai esatto. Un po' della tua nuova collaborazione, giusto? Esatto, esatto. Siamo... è una cosa che in realtà doveva uscire decisamente prima, ma come okay. Tutti sappiamo c'è stata ovviamente una parte in mezzo in cui ci siamo messi a fare i giochi in casa un po' tutti. Come hai passato la quarantena a proposito di questo? La domanda del secolo ormai, dell'anno devo dire. La domanda dell'anno, molto bene, molto molto bene. È stato sicuramente uno spunto un po' creativo magari per gli artisti tendenzialmente, insomma nella sofferenza, un po' nel disagio si trova sempre uno spunto per creare, no? Sì, sì, sì, l'ho cercato un attimo di arginare però in realtà io, nel senso che ho più che altro cercato di creare delle idee più che delle composizioni effettive, musicali, e quindi ho cercato di, diciamo, riflettere su diversi aspetti, quindi non ho scritto, ma poi c'era un motivo in realtà, perché il fatto di non scrivere è stato, insomma, era un'idea nella quale un po' mi sono obbligato per certo. Poter accedere ovviamente nel momento in cui c'è stata la riapertura a un progetto diverso, quindi tenere tutto dentro come una bomba e poi esploderà esatto e in una roba, insomma, che più avanti magari, insomma, ve ne parlerò, che vedrete su un documentario, ecco dopo parleremo infatti anche di questo, ma innanzitutto appunto vorrei parlare di una canzone che in realtà tu hai suonato anche proprio live qui da noi ed è stato un momento meraviglioso, tra l'altro, che di cui abbiamo ancora il video se non ricordo male, sì. Perché è stato un live molto bello, e la canzone in questione è Io vorrei tu morissi ora. È veramente molto, mi piace, a parte bellissima. Che il titolo preso così a me faceva ridere in realtà, però in realtà il testo è anche proprio profondo, è molto veramente molto bello, le parole sono stupende e hai realizzato un nuovo featuring con appunto un Massimo Simonini. Che vi lega in realtà un rapporto di amicizia da anni e anni, quindi insomma è, diciamo, qualcosa che finalmente si realizza, un progetto. Allora, che... sì, noi ci conosciamo da 41 anni, io sono nato nel 79, perché ora caramba che sorpresa, come è mio zio. Dalla vicinanza di età c'è sempre stato un rapporto di amicizia fondamentalmente, è stato un rapporto zio-nipote, perché siccome c'è una manciata d'anni di differenza, in realtà siamo cresciuti praticamente assieme. E, erano tanti anni che noi, insomma, ci si girava intorno a dai, facciamo qualcosa, perché veniamo da due mondi musicali completamente differenti, distanti, e poi certo. In realtà ci siamo, soprattutto lui che ha qualche anno in più, mi ha sempre contaminato in mille ascolti, è stato quasi il mio educatore, se così si fa poi dire ironicamente, musicale. E allora ci siamo sempre detti facciamo qualcosa assieme. Il progetto più bello voleva essere una presa in giro, in realtà volevamo fare un pezzo tra il pop, dance pop, una roba molto radiofonica, ma qua ti parlo di tanti anni fa, un po' appunto per per ingannare tra virgolette l'ascoltatore, che si chiede ma come, qua uno fa una roba, uno fa un'altra, escono fuori con un singolo, cioè, ovviamente studiato a tavolino rigorosamente, una cosa di quelle cose oscene come in realtà fanno quasi tutti in quel momento. Vabbè, un po' una strategia di marketing che a volte insomma può aiutare, no, a lanciare entrambe un po' le parti. Entrambe le parti, esatto. Certo, certo, no, ma infatti voleva proprio essere una cosa più cosa. Poi dopo alla fine si sono canalizzati impegni, insomma, ci siamo messi poi ovviamente no, e anche il creatore, il direttore artistico di Festival, è una cosa che in realtà ultimamente, oltre alla sua parte puramente artistica, è anche questo progetto gli porta via tantissimo tempo. Infatti la cosa più triste è che ci sentiamo più per telefono che vederci, nonostante insomma non si viva estremamente lontani. Quindi e allora sì? E allora tu qua quando senza farglielo ovviamente sentire niente, perché era troppo semplice, lui lesse da qualche parte insomma i nomi delle canzoni, no, che avevo pubblicato su, sì, Città Animale, e quando lesse Io vorrei tu morissi ora, senza ovviamente aver ascoltato nulla, mi disse ma no, è qui che hai sbagliato tutto. Ho detto come, Massimo, anche ascoltato. Perché comunque il titolo dovrebbe essere Io vorrei tu vivessi ora. Ho detto guarda, è bellissimo, cioè effettivamente potrebbe essere un sfogo. Allora io ho detto senti, no, ascolta il brano, le cose, me lo lavori tu come vuoi tu. Ok, quindi è stato bello. Con la promessa finta gli ho fatto ovviamente di cambiare il titolo a suo piacere. Ovviamente su questa cosa l'ho tradito perché non ce l'ho potuta fare. No, e lui mi ha fatto questo lavoro bellissimo che in realtà doveva essere il primo di una serie di featuring. Praticamente tutto il disco è stato preso in mano da altri artisti per rilavorare ogni brano. E ovviamente tutto, ripeto, con quel ritardo purtroppo spaventoso di tempi, ma quello tanto, insomma, la musica non avendo tempo si lascia andare e quando saranno pronti mano a mano si butteranno fuori, e quindi questo è stato il primo. È stato il primo che magari insomma di una collaborazione che magari insomma continuerà a quanto pare, perché potrebbe essere, se questa canzone insomma avrà successo, questa collaborazione sarà un inizio interessante allora tra Fargas e suo zio. È stata una rivelazione in realtà interessante, non ce l'aspettavamo, caramba, che sorpresa veramente. Allora io direi adesso a questo punto di ascoltarci la canzone in questione, Io vorrei tu morissi ora, la versione direi più cinica del titolo Io vorrei tu vivessi ora. Però quindi allora noi intanto ti salutiamo e speriamo di averti presto insomma nel nostro studio, a poterti insomma sentire finalmente di nuovo suonare dal vivo, che in acustico, che è sempre una bella emozione. In acustico, esatto. Ben volentieri. E allora Io vorrei tu morissi ora, Fargas. Tra i palazzi crollati.